Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari amici ed amiche, buonasera. Eccoci qui come ogni domenica per la nostra oretta insieme. E salutiamo il mio partner zelante, bravissimo Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi, e un cordiale benvenuto alle amiche e gli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, ricordiamo la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. E stasera abbiamo con noi una persona alla quale io voglio bene, sono sincera, ed è il professor Francesco Crosato. Buonasera Francesco. Ciao a tutti, ben voglio bene anch'io, a tutti e due, tutti gli ascoltatori. Hai un cuore ormai grande Francesco. Sì, abbastanza, so, quello che è possibile. Vabbè, dai. Comunque benvenuto anche questa volta alla nostra trasmissione. Grazie. E sei sempre gradito. Bene, allora cominciamo subito con la prima, col primo brano in programma. Stasera abbiamo Natalino Otto, così musica un po'. Tu Antonio, parla un attimo di Natalino Otto. Musica, so che il re dello swing, come che ha anticipato molti che poi sono venuti, ma indegni eredi di questo grande personaggio. Ecco, e allora come prima canzone ti ascoltiamo Oh Oh Aha. Piacer mi fa, se l'ultimo mio amore fa i capricci e se ne va. Oh oh oh ah, ah. È una felicità, so che un amore nuovo un dì più bello nascerà. Ed eccoci di nuovo in studio e naturalmente abbiamo il nostro ospite al quale chiediamo, per i pochi che non lo conoscono, di fare un brevissimo cenno autobiografico. Sì, Francesco Crosato, sono venuto qui più volte a recitare delle poesie che io stesso scrivo, anche un poemetto, il non so, non so, non so. Bello, scrivo bello. Sia in italiano che in dialetto trevigiano, anche se per questa volta, appunto, avendo già fatto conoscere le mie cose più volte, volevo invece leggere grandi poesie del passato, classiche. Anzi, le poesie che io amo di più della letteratura italiana, a partire da Foscolo in poi. Poi via via le presento, la prima sarà Alla sera di Foscolo, il sonetto Alla sera. Quindi ho selezionato col cuore, ecco questo sì, bellissimo, alcune liriche che mi hanno segnato e mi hanno appassionato particolarmente. Ma sei in pensione ancora? Non sono in pensione, io devo fare ancora quest'anno e un altro, ho 61 anni e appunto insegno italiano e storia al Mazzotti, Treviso, un istituto turistico, e cerco appunto di trasmettere ai miei ragazzi questa passione per la poesia, oltre che appunto anche per la letteratura in generale, eccetera. Ecco. Che è la mia passione anche. Mm-hmm. Bene. Così. Allora partiamo. Se con, vuoi cominciare, sì, sì. Con Foscolo. Foscolo perché davvero è il poeta che mi fa veramente vibrare, no? Anche per la sua contemporaneità, insomma. Prima di Foscolo, ovviamente amo tantissimo questi poeti, da Dante, Petrarca, eccetera, però con Foscolo io comincio veramente a sentire un brivido particolare. Il sonetto, la poesia che amo di più è certamente Alla sera, sì, è bella, in molto. Cui anche è decisamente romantico, non ci sono elementi anche neoclassici come in altre, che pur appunto sono sempre sostenuti da un grande sentimento, e quindi non è mai un neoclassicismo così polveroso, no? Ma certo, è sempre vitale, però in questo caso abbiamo proprio l'adesione all'esistenza, insomma la presa diretta con la vita. Allora, Alla sera, quindi tema la sera come immagine della morte, la morte intesa come annullamento totale, lo scontro dell'eroe con una realtà storica negativa come spesso è la storia. Vero. E nello stesso tempo però la sera come immagine della morte è anche la pace, nello stesso la parte di un uomo che vive intensamente, con grande passione politica, amorosa, e questo è l'elemento che a me affascina in particolare, no? Non è il poeta chiuso nella torre d'avorio, ma immerso nell'esistenza. Alla sera. Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago a messi caravieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive, i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensier sull'orme, che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure, onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge. Bella, bella. Poesia straordinaria. Sì. Bellissima. Certamente. E una tra le più belle per me, poesia del 1800, da accostare all'altro grandissimo poeta della letteratura italiana, che è Leopardi, col suo infinito. Col suo infinito, con la sua poetica del vago, dell'indefinito, il concetto di infinito nel tempo e nello spazio, questa siepe che ti impedisce di guardare l'orizzonte, che però preferisci perché ti permette di immaginare quello che c'è dopo. Quindi la vita come immaginazione, e invece che come realtà, quasi è meglio immaginare che vivere, forse. Ecco il senso più profondo di questa bellissima lirica che ripropongo, pur conosciutissima, ma è sempre bene risentirle queste cose, no? È sempre bellissima. Perché rischiamo sempre di viverle in modo scolastico. Certo. L'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente è viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Che bella, che bella questa poesia! È bellissima. Una rappresentazione pittorica, diciamo, onirica della realtà assoluta, fantasia. Bellissima, è bellissima. Tra le più belle del mondo. Esatto. Sì, sì. E un'altra poesia che ho scelto di Leopardi, anche questa, che spesso viene appunto passata in modo un po' superficiale, no? E anche nella scuola, il passero solitario. Passero solitario, ho sentito una recitazione di Carmelo Bene, del passero solitario, a casa, sì. È vero? in cui si avverte il dramma profondo di questo poeta, nel non riuscire a vivere fino in fondo la propria esistenza e nell'identificarsi con questo passero, che però è solitario per razza, no? È della stirpe dei passeri solitari e quindi non sentirà nessun problema alla fine della sua vita, non si pentirà di come ha vissuto, perché era nella sua indole, mentre lui che poteva vivere veramente, alla fine della sua vita si guarderà indietro amareggiato. Ecco, questo quindi il dramma profondo, no? Che spesso non viene colto quando la leggiamo magari così in modo un po' scolastico, no? Il passero solitario. D'in sulla vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai finché non more il giorno. Ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, si cammiralla, intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri ugelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu pensoso, in disparte, il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Anche questa è bellissima. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio, sollazzo e riso della novella età, dolce famiglia, e te, Germán di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo, io non so come, anzi da loro quasi fuggo, lontano, quasi romito e strano, al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, che ormai cede alla sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa, tutta vestita a festa. La gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata in corsa allegra. Io, solitario, in questa rimota parte, alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo. E intanto il guardo, steso nell'aria aprica, mi fera il sol, che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendo si dilegua e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e lor fia vuoto il mondo, il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di questi anni miei, che di me stesso? Ahi, pentirommi e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro. Ah, è molto bella, molto bella. Mamma mia, vabbè, certo che la poesia non ti stanca mai, veramente non ti dà sempre qualcosa. Vabbè, procediamo con la seconda canzone. Con la seconda canzone che è Cicci Ucci. Cicci Ucci. Quando baciavo te, bambina mia, quanta felicità e che poesia. Cicci Ucci, un usignol cantava allora. Cicci Ucci, la sua canzone al nostro amore. Ed or che son lontano a far fortuna, sospiro quando in cielo appare la luna. Cip ci uci, un usignol mi sento in cuore. Cip ci uci, la sua canzone cantare ancora. E va, e va. Cip ci uci, il mio pensiero lontano va, lontano va. Perché, perché. Cicci uccì con l'illusione ritorno a te. Ritorno a te. Cicci uccì mi canta nel cuore. Cicci uccì un canto d'amore. Cicci uccì un tamba al pensiero. Cicci uccì, uccì, uccì. E va, e va. Cicci uccì con l'illusione ritorno a te. Mi palpitava il cuore varcando il mare, partivo e già sognavo di tornare. Cip ciu ciu, l'usignol la me volò. Cip ciu ciu, sembrava dir con te verrò. E quando più m'assale la nostalgia della tua bocca e della terra mia. Cip ciu ciu, un usignol torna a cantare. Cip ciu ciu, le pene mie per consolare. E va, ciu ciu, ciu ciu. E va, ciu ciu, ciu ciu. Il canto suo lontano va. Perché? Ti possa dir che penso a te. Cio ci mi canta nel cuore. Cio ci un canto d'amore. Cio ci non tamba il pensiero. Cio ci, cio ci, cio ci. E va, e va. Cio ci, il canto suo lontano va. E mai mi lascerà nostalgia della tua bocca e della terra mia. Ed eccoci di nuovo in studio per un altro carico di emozioni e di sentimenti che queste poesie straordinarie, certo, ci regalano. Sì, anche qui adesso andiamo sul sicuro dal punto di vista dell'emozione. Gabriele D'Annunzio. Ah. Poeta molto discusso per la sua vita, e per il suo modo di vivere, però di una bravura tecnica nel campo linguistico straordinaria. Sì. E quindi leggiamo la poesia che maggiormente dà questa, il senso di questa tecnica raffinatissima, che è La pioggia nel pineto, con bello, la sua estrema musicalità. Sì, sì. Musicalità, quindi il poeta entra in questa pineta con la sua donna che chiama Ermione, perché non poteva evidentemente avere una donna normale che si chiamava Paola o Giulia. Raccoglie questo nome dalla mitologia, in realtà sappiamo essere la grande attrice probabilmente, no, Eleonora Duse, sì, che lentamente, travolti da questa natura, da questa pioggia, sembrano trasformarsi in piante. Anche se è ben consapevole che in fondo è solo una favola bella quella che stanno vivendo. Per fortuna il suo narcisismo è stato in questo un po' controllato. Allora, ascoltiamo La pioggia nel pineto. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove. Dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura con crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale che il pianto australe non impaura nel ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre, d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro e molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta, l'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce, più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne, non so de voce del mare. Or sode su tutta la fronda crociare l'argente a pioggia che monda, il crocio che varia secondo la fronda più folta men folta ascolta. La figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontano, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, e piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita in noi fresca, aulente, il cuore nel petto è come pesca, intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiamo di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, e il vente virgorn rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, e piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella, sulla favola bella che ieri m'illuse, che oggi t'illude, o Ermione. Bella, ah, una acrobazia linguistica. È bellissima questa poesia. Virtuosismo. Sì, sì, esatto, questo è incredibile. Molto. La musicalità che riesce, con cui riesce a trasformare appunto la parola. Pure non stancano mai queste poesie. Abbiamo ancora Tranquillamente possiamo procedere. Allora, procediamo con, seguendo appunto una linea anche cronologica, quindi Foscolo, Leopardi, D'Annunzio, adesso siamo a fine 800, primi 900, con il grande Pascoli, Giovanni Pascoli, un altro grande poeta, un grande virtuosista della lingua, e ricercatore anche della lingua, una certa poesia che conosciamo, Italia, riesce addirittura a mescolare l'italiano col dialetto e con l'inglese in quell'epoca. E però per Pascoli ho scelto un altro classico, Il gelsomino notturno. Oh, la mia passione! Ecco, col simbolismo del fiore, sì, l'invito all'amore, il senso di esclusione del poeta dalle gioie familiari, ma anche più intime, no? Il legame ossessivo coi suoi morti. E quindi passiamo al gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio. E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari. Da un pezzo si tacquero i gridi, la sola una casa bisbiglia, sotto l'ali dormono i nidi, come gli occhi, sotto le ciglia. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse, splende un lume là nella sala, nasce l'erba sopra le fosse. Un'ape tardiva sussurra, trovando già prese le celle, la chioccetta per l'aia azzurra va col suo pigolio di stelle. Per tutta la notte si esala l'odore che passa col vento, passa il lume su per la scala, brilla il primo piano, s'è spento. È l'alba, si chiudono i petali, un poco gualciti si cova, dentro l'urna molle e segreta, non so che felicità nuova. Eh sì, molto bella. Ecco, e se c'è ancora un attimo di tempo, possiamo invece cambiare registro completamente, andare sempre nei primi anni del Novecento, insomma, siamo nel 1910, con un altro poeta, un po' crepuscolare, un po' futurista. Qui c'è l'anima più futurista in realtà che crepuscolare, cioè il grande Aldo Palazzeschi, con questa poesia leggerissima, E lasciatemi divertire. Ah sì, sì, la conosco anche questa. Dall'incendiario, assoluta libertà espressiva. E lasciatemi divertire. E tri, tri, tri, fru, fru, fru, iu, iu, iu. Ui, ui, ui. Il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Cucù, ruru, ruru, cucù, cucuru, cucù. Cosa sono queste indecenze, queste strofe bisbetiche, licenze, licenze, licenze poetiche, sono la mia passione, fara fara fara fa, tara tara tara ta, para para para pa, la la la la la la la, sapete cosa sono? Sono robe avanzate, non sono grullerie, sono la spazzatura delle altre poesie, bo bo bo bo bo, fo fo fo fo fo, friu friu, ma se d'un qualunque nesso son prive, perché le scrive quel fesso? Bilo bilo bilo bilo bilo, blum, filo filo filo filo filo, flum, bilo lu filo lu, Non è vero che non vogliono dire? Vogliono dire qualcosa, vogliono dire come quando uno si mette a cantare senza saper le parole, una cosa molto volgare, bene così mi piace di fare. Ah, e, i, o, u, a, e, i, o, u. Ma giovinotto, ditemi un poco una cosa, non è la vostra una posa di voler con così poco tenere alimentato un sì gran fuoco? Uish, uish, uish, uish, uish, uish, uish, uish, uish, uish, uish, ma come si deve fare a capire? Avete delle belle pretese, sembra ormai che scriviate in giapponese. Abi, ali, alari, ri, ri, ri, ri, ri. Lasciate pure che si sbizzarisca, anzi è bene che non la finisca. Il divertimento gli costerà caro, gli daranno del somaro. La, ba, la, fa, la, la, fa, la, la, e poi la, la, la, la, la, la, la. Certo. È un azzardo un po' forte scrivere delle cose così, che ci sono professori oggi dì a tutte le porte. Infine, io ho pienamente ragione. I tempi sono molto cambiati, gli uomini non dimandano più nulla dai poeti. E lasciatemi divertire. Che bello. Benissimo, allora abbiamo concluso questa tranche e andiamo con il prossimo brano che casualmente si chiama La classe degli asini. Perfetto, perfetto. Signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei? I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no. Tutti i ripetenti della classe terza B stanno sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto, ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Signorina Maccabei, venga fuori, dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sentiamo Massinelli, di mio re degli asinelli, dove sono i Dardanelli? Professore, io non lo so, lo dica lei, dal cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa, cocorocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura, il professore non lo sa. Cortile che confina con l'università, salta fuori una gallina che una domanda fa, corro, cocco, consentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura, il professore non lo sa. Ed eccoci di nuovo in studio, e prima di lasciare la parola al nostro ospite abbiamo il siparietto tradizionale Storie de che altri. Questa sera proponiamo una poesia di Jorge Luis Borges, un poeta venuto quasi dalla fine del mondo, per parafrasare un noto personaggio. Las cosas, el bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas? Láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Le cose, le monete, il bastone, il portachiavi, la pronta serratura, i tardi appunti che non potranno mai leggere i miei scarsi giorni, le carte da gioco e la scacchiera, un libro e tra le pagine appassita la viola, monumento di una sera di certo inobliabile e obliata, il rosso specchio occidente in cui arde illusoria un'aurora. Quante cose, atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi, ci servono come taciti schiavi, senza sguardo, stranamente segrete. Dureranno più in là del nostro oblio. Non saprà mai che ce ne siamo andati. E voilà. Adesso il nostro ospite continuerà il suo flusso poetico. Sì, allora ci abbiamo lasciati prima, no? Con Pascoli, D'Annunzio Pascoli. Adesso restiamo più o meno sempre nella prima metà del Novecento con un grandissimo, poco in realtà valorizzato, che è Guido Gozzano. Ah, quanto mi Guido piace! Gozzano, no? Con questa sua ironia crepuscolare, però anche ironico, no? Quindi malinconia, però anche ironia, che lo salva. E la sua opera più famosa, probabilmente, è il poemetto La signorina Felicita. Ovvero la felicità. Qui vediamo questo, ecco, ci dedichiamo proprio a questo in questo momento, no? Completamente in questa breve break, no? Intellettuale, giovane, già malato, tra l'altro, morirà molto giovane, lo sappiamo, di tubercolosi. Questo intellettuale, quindi controllatissimo, un mentale in realtà, che vorrebbe aderire alla vita ma non ce la fa, e incontra questa ragazza così pura, così di campagna, semplice, e lei si innamora, lui più che innamorarsi vorrebbe innamorarsi, no? Ma è la sua mente, è più forte. E allora in questo gioco, ecco, questo rapporto così particolare viene raccontato in questo poemetto, è descritta anche ovviamente l'ambiente, no, di provincia in cui è inserito. Allora vediamo insieme, sono 8 parti, io ne seleziono alcune, no? La prima, seconda, terza, poi settima e la fine l'ottava. Signorina Felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa. Nel mio cuore amico scende il ricordo e ti rivedo ancora, Ivrea. Rivedo Ivrea e la cerulea d'ora e quel dolce paese che non dico. Signorina Felicita, è il tuo giorno. A quest'ora che fai? Tosti il caffè e il buon aroma si diffonde intorno? O cuci i lini e canti e pensi a me, all'avvocato, che non fa ritorno? E l'avvocato è qui, che pensa a te. Pensa i bei giorni d'un autunno addietro, Villa Marena è sommo dell'ascesa, coi suoi ciliegi e con la sua marchesa dannata. E l'orto dal profumo tetro di busso, i cocci, i numeri di vetro, sulla cinta vetusta, la difesa, Villa Marena. Dolce la tua casa in quella grande pace settembrina, la tua casa che veste una cortina di grano turco fino alla cimasa, come una dama secentista invasa dal tempo che vestì da contadina. Bell'edificio, triste, inabitato, grate panciute, logore, contorte e silenzio. Fuga delle stanze morte, odore d'ombra, odore di passato, odore d'abbandono desolato, fiabe defunte delle sovrapporte. Ercole furibondo, il centauro, le gesta dell'eroe navigatore, Fetonte il polo, sventurato amore d'Arianna, Minosse il minotauro, Dafne rincorsa trasmutata in lauro tra le braccia del nume germitore. Penso l'arredo, che malinconia. Penso all'arredo squallido e severo, antico e nuovo, la pirografia sui divani corinzi dell'impero, la cartolina della bella Otero alle specchiere. Che malinconia. Antica suppellettile forbita, armadi immensi pieni di lenzuola che tu rammendi paziente a vita. Semplicità che l'anima consola, semplicità dove tu vivi sola con tuo padre la tua semplice vita. Quel tuo buon padre, infama d'usuraio, quasi bifolco, ma coglieva senza inquietarsi della mia frequenza. Mi parlava dell'uve e del massaio, mi confidava certo antico guaio notarile con somma deferenza. Senta, avvocato, e mi traeva inquieto nel salone talvolta con un atto che leggeva lentissimo, in segreto. Io l'ascoltavo docile, distratto da quell'odor d'inchiostro putrefatto, da quel disegno strano del tappeto, da quel salone buio e troppo vasto. La marchesa fuggì, le spese cieche, da quel parato a ghirlandette, a greche dell'810, ma il catasto, da quel tic-tac dell'orologio guasto, l'ipotecario è morto e l'ipoteca, capiva poi che non capivo niente, sbigottiva, ma l'ipotecario è morto, e se l'ipotecario è morto allora, fortunatamente, tu comparivi tutta sorridente. Ecco il nostro malato immaginario. Sei quasi brutta, priva di lusinga, nelle tue vesti quasi campagnole, ma la tua faccia buona e casalinga, ma i bei capelli di color di sole, attorti in minutissime trecciuole, ti fanno un tipo di beltà fiamminga. E rivedo la tua bocca vermiglia così larga nel ridere e nel bere, e il volto quadro senza sopracciglia, tutto sparso de feli di leggere, e gli occhi fermi, l'iridi sincere, azzurre d'un azzurro di stoviglia. Tu m'hai amato, nei begli occhi fermi rideva una blandizia femminina, tu civettavi con sottili schermi, tu volevi piacermi, signorina, e più d'ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo voler piacermi. Ogni giorno salivo alla tua volta per il soleggiato ripido sentiero. Il farmacista non pensò davvero un'amicizia così bene accolta quando ti presentò la prima volta l'ignoto villeggiante forestiero. Talora, già la mensa era imbandita, mi trattenevi a cena. Era una cena ad altri tempi, col gatto e la falena, e la stoviglia semplice e fiorita, il commento dei cibi, e Maddalena decrepita, e la siesta, e la partita. Per la partita, verso 21 ore, giungeva tutto l'inclito collegio politico locale, il molto regio notaio, il signor sindaco, il dottore, ma poiché trasognato giocatore, quei signori m'avevano in dispregio. Era più dolce starmene in cucina, tra le stoviglie, a vividi colori, tu tacevi, tacevo, signorina. Godevo quel silenzio e quegli odori, tanto, tanto per me consolatori, di basilico, d'aglio e di cedrina. Maddalena, con sordo brontolio, disponeva gli arredi ben detersi, rigovernava lentamente ed io, già smarrito nei sogni più diversi, accordavo le sillabe dei versi sul ritmo eguale dell'acciottolio. E poi salto un po' e vado verso la fine, perché è veramente un poemetto straordinario, sì, per bello. La delicatezza, sì. L'ironia. Tu m'hai amato, nei begli occhi fermi luceva una blandizia femminina. Tu civettavi con sottili schermi, tu volevi piacermi, signorina. E più d'ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo voler piacermi. Unire la mia sorte alla tua sorte per sempre nella casa centenaria. Ah, con te forse, piccola consorte vivace, trasparente come l'aria, rinnegherei la fede letteraria che fa la vita simile alla morte. Oh, questa vita sterile di sogno. Meglio la vita ruvida, concreta, del buon mercante inteso alla moneta. Meglio andare sferzati dal bisogno, ma vivere di vita. Io mi vergogno, sì, mi vergogno di essere un poeta. Tu non fai versi? Hm? Tagli le camicie per tuo padre. Hai fatta la seconda classe, t'han detto che la terra è tonda, ma tu non credi. E non mediti, Nietzsche, mi piaci. Mi faresti più felice di una intellettuale gemebonda. Tu ignori questo male che si apprende in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti, tutta beata nelle tue faccende. Mi piaci. Penso che leggendo questi miei versi tuoi non mi comprenderesti, e da me piace chi non mi comprende. Ed io non voglio più essere io, no, non più l'esteta gelido, il sofista, ma vivere nel tuo borgo natio, ma vivere alla piccola conquista, canteggiando, placido, in oblio, come tuo padre, come il farmacista, ed io non voglio più essere io. E poi conclude: giunse il distacco, amaro e senza fine, fu il distacco d'altri tempi, quando le amate in bande lisce, in crinoline, protese da un giardino venerando, singhiozzavano forte, salutando diligenze che andavano al confine. Ma apparisti così, come in un cantico del Prati, lacrimante l'abbandono per l'isole perdute nell'Atlantico, ed io fui l'uomo d'altri tempi, un buono sentimentale, giovine romantico, quello che fingo d'essere e non sono. Grande, bello, grande, sì. grande. Ecco, bello. Allora possiamo passare alla prossima canzone, che è... musicale, alla prossima canzone, che è Ho un sassolino nella scarpa. Ecco. Tanto tanto male, ai batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una ad una, ai cerco sorridere alla luna, ai provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai che mi fa tanto male, hai batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù. Eccoci di nuovo in studio col nostro ospite, sì, il professor Francesco Crosato. Sì, niente, adesso andiamo avanti un po', facciamo un altro passetto, però più verso il restiamo poi nel primo Novecento con Umberto Saba, il grande triestino, la poesia del 10-12. In realtà poi la gesuina mi aveva anche detto di leggere a mia moglie e abbiamo avuto una piccola discussione perché appunto a mia moglie cerca di descrivere la donna nella quotidianità, ma appunto gli manca esattamente l'aspetto sublimato, romantico, sì, che io amo particolarmente. Invece questo aspetto si nota proprio nella poesia Trieste, che per me è tra le più belle, in cui vede Trieste, la sua città, come un ragazzo vorace e aspro. Vediamo un po', ecco, facciamo questo omaggio a Saba e poi passiamo magari a Montale, che è il mio poeta preferito. Trieste. Ho attraversato tutta la città, poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via, scopro, semena all'ingombrata spiaggia o alla collina cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima, si aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita pensosa e schiva. È un ritratto della città trasformato, no? Personalizzato, no? Questa città che si trasforma in un ragazzo, bellissima. Io ho letto qualcosa anche in prosa. Sì, certo, sì, poi ha scritto lui, anche sì, delle cose in prosa. Ecco, adesso io direi, adesso abbiamo ancora un po' di tempo, ci dedichiamo invece al mio grande amore, cioè a Montale. A Montale, e adesso parliamo della prima raccolta Ossi di Seppia, e quindi immediatamente i limoni. E quindi il rifiuto un po' della poesia aulica, no? All'inizio cita vagamente il D'Annunzio proprio della pioggia nel pineto, sì, di prima, e parla invece di questa necessità di ancoraggio alla quotidianità che però poi lui eleva sempre, no? Sentiamo i limoni. Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto tra le piante, dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti, tra gli alberi, dei limoni. Meglio se le gazzare degli uccelli si spengono, inghiottite dall'azzurro. Più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra, qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza e dell'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo, nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfa e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. Evocativo, altamente sì, evocativo. Sì. Cosa sono sti limoni? Sì. Lasciamolo poi ai lettori. Naturalmente. La curiosità. La poesia, chi lo sa. E poi a me piace moltissimo quell'altra, sulla felicità, un qualcosa che puoi solo toccare e poi quando la tocchi scappa, se ne va, è solo un momento, no? E questa appunto poesia, che eccola qua, felicità raggiunta, senti che roba. Felicità raggiunta, si cammina per te su fil di lama. Agli occhi sei barlume che vacilla, al piede teso ghiaccio che si incrina, e dunque non ti tocchi chi più t'ama. Se giungi sulle anime invase di tristezza e le schiari, il tuo mattino è dolce e turbatore come i nidi delle cimase, ma nulla paga il pianto del bambino a cui fugge il pallone tra le case. Ah, che bella immagine. Grandioso. Sì, bella, bella. Poi un altro classico, il non chiederci la parola, ovviamente, no? L'impossibilità quindi di ricevere risposte definitive, chiare, l'incertezza in cui siamo immersi, no? Non chiedersi la parola, non chiedersi la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe, a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Bella, bella. Poi passerei, vediamo un po', a quella sul girasole, magari. Ecco, chiaramente, quindi la vitalità espressa dal girasole. Portami il girasole che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono la chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche svanire, è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze, evapora la vita quale essenza, portami il girasole impazzito di luce. Bello. Non ci sono parole. Non servono. Senti questa, maestrale. Sentite che si è rifatta la calma nell'aria, tra gli scogli parlotta la maretta, sulla costa quietata nei broli qualche palma appena svetta, una carezza disfiora la linea del mare e la scompiglia un attimo, soffio lieve che vi si infrange ancora il cammino ripiglia, lameggia nella chiaria la vasta distesa, si increspa, indi si spiana beata e specchia nel suo cuore vasto codesta povera mia vita turbata. O mio tronco che additi in questa ebrietudine tarda, ogni rinato aspetto coi germogli fioriti sulle tue mani, guarda. Sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai, perché tutte le immagini portano scritto più in là. Più in là. Questo mistero del più in là, no? Anche il nostro Montale lascia il punto di domanda. Più in là. E ancora su questo tono, in questa chiave, Casa sul mare. Poesie mari meno conosciute, però appunto danno sto senso del mistero. Sì, queste non le conosco. Il viaggio finisce qui, nelle cure meschine che dividono l'anima, che non sa più dare un grido. Ora i minuti sono uguali e fissi, come i giri di ruota della pompa. Un giro, un salir d'acqua che rimbomba, un altro al tracqua, a tratti un cigolio. Il viaggio finisce a questa spiaggia, che tentano gli assidui e lenti flussi. Nulla disvela se non pigri fumi la marina che tramano di conche i soffi leni, ed è raro che appaia nella bonaccia muta tra l'isole dell'aria migrabonde la Corsica torsuta o la Capraia. Tu chiedi se così tutto vanisce in questa poca nebbia di memorie, se nell'ora che torpe, nel sospiro del frangente, si compie ogni destino. Vorrei dirti che no, che ti s'appressa l'ora che passerai di là dal tempo. Forse solo chi vuole si infinita, e questo tu potrai, chissà, non io. Penso che per i più non sia salvezza, ma taluno sovverta ogni disegno, passi il varco, qual volle si ritrovi. Vorrei prima di cedere segnarti codesta via di fuga, labile, come nei sommossi campi del mare, spuma o ruga. Ti dono anche l'avara mia speranza. Ai nuovi giorni stanco non so crescerla, l'offro impegno al tuo fato che ti scampi. Il cammino finisce a queste prode, che rode la marea col moto alterno, il tuo cuore vicino che non mode, salpa già forse per l'eterno. Ah, eterno, grande parola. Sì. E qui naturalmente ecco, ci fermiamo per l'ultimo brano musicale, che è un classico, Arriva il direttore. Eh sì. Quando eravamo piccini, la nostra maestrina, con la più gran disciplina, tutti faceva filar. Lei ci metteva in riga, gridando, fate attenzione, adesso marcerete cantando questa canzone. Battiam, battiam le mani, arriva il direttore, battiam, battiam le mani, all'uomo di valor, gettiamo tulipani e mazzolin di fior, cantiamo tutti in coro, evviva, evviva, ed una coppa d'oro, doniamo al direttore. Finalmente a 20 anni dicemmo è finita, ora ci porta la vita giorni di felicità. Ma presto tutti quanti dovemmo poi constatar che per andare avanti si deve sempre cantar. Battiam, battiam le mani, arriva il direttore. Battiam, battiam le mani, all'uomo di valore. Gettiamo tulipani e mazzolin di fior, cantiamo tutti in coro, evviva, evviva, ed una coppa d'oro, doniamo al direttore. Eccoci di nuovo in studio col nostro ospite, il professor Francesco Crosato. Per l'ultima tranche ormai. Per l'ultima tranche di saluti. Di saluti, perché... sì. Solo saluti, purtroppo. Sì, perché, di saluti perché avevo preso il gusto adesso commentare. Guarda, noi pure, ma ci sarà un altro tempo. È stato bello vero? Vedere queste cose insieme. Queste riproposizioni. Sì, è stato veramente simpatico. Per rimeditare su tante letture e poi tentare di proporle con un po' di grazia e di sentimento. Ma è sempre bello, sempre veramente. Benissimo, veramente. Comunque, così niente, non è ci stato resta bello, grazie. Non ci resta che ringraziarti, Francesco, sì, sei grazie sempre grande. Grazie, ecco, grazie. Naturalmente non possiamo far altro che dire addio piacendo alla a domenica. Prossima occasione, alla prossima volta. Allora io vi saluto, speriamo di avere il nostro Francesco ancora con noi. Più presto possibile. Anche con la prosa. Ecco, appunto, appunto. Ma intanto lo saluto e come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.